Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchessi, oggi è il 6 di settembre e state ascoltando la seconda edizione di Italia in controluce. Vi ricordo al mattino alle 6.30 all'interno della nuova fascia in diretta di informazione la pillola di Italia in controluce, cioè il racconto e l'intervista Mignon sui grandi temi di attualità ma anche sulla cronaca italiana. E poi questa edizione più lunga, un'edizione di reportage, d'inchiesta sulla cronaca, sulla politica, sul costume, sullo spettacolo italiano. Tiziano Marelli, giornalista, se ti dicessi Rivera... Ma mi viene un po' di mal di stomaco, però va bene, anche perché comunque, come dico nel libro, è forse il primo calciatore che ho intervistato in assoluto, poi come si fa in fondo a non volergli bene, sempre stato un grande, un po' meno di Mazzola ma un grande. Claudio Sanfilippo, professione cantautore, non solo, se ti dicessi Mazzola invece? Diciamo che nella tradizione del calcio milanese, dopo il Gianni c'è Sandrino. Dopo Rivera, quindi. Beh sì, ma la storia che lo dice non sono io, poi io lo ribadisco nel libro, nel mio capitolo, e in questo non siamo d'accordo io e Tiziano, però insomma... Mazzola è stato un grande giocatore, grandissimo. Stiamo parlando con Tiziano Marelli, giornalista, e Claudio Sanfilippo, cantautore, di un libro uscito in questi giorni per Mondadori, Fedeli a San Siro. È però un libro che parte dal calcio e va a raccontare anche la città di Milano, le sue trasformazioni. Sì, direi di sì. Però posso dire anzitutto che voi siete, che una volta tanto il Milan vince 2-1 perché siete due milanisti contro di me, quest'anno forse è l'unica volta che riuscirete a vincere. Beh, una volta tanto mica tanto, perché anche l'anno scorso siete tornati a casa con le pive nel sacco. Vabbè, è successo così. Comunque volevo dire che il libro nasce anche da una serie di coincidenze, due fortunate. La prima, che eravamo vicini di casa e ci siamo conosciuti così, nel libro lo descriviamo bene. La seconda è che per fortuna eravamo di sponde avverse, se fossimo stati tutti e due interisti o io fossi stato milanista, cosa peraltro impossibile, non avrebbe mai potuto succedere di scrivere questa cosa, ecco. Come dici bene tu, Daniele, è un libro che in realtà ha il calcio come pretesto, ma che poi viaggia attraverso i ricordi, le memorie della Milano che abbiamo vissuto da bambini e da ragazzi, quindi insomma il cuore del libro poi alla fine sono gli anni 60 e 70, e quindi anche chi non è avvezzo ad argomenti vicini al calcio in senso tecnico, insomma, penso che si possa divertire a leggere questo nostro libro. Ma c'è il polpaccio di Bigon? C'è il polpaccio di Bigon, lo scrivo io. E lo scrivo perché una volta si entrava a San Siro, aprivano i cancelli, non avevo i soldi per andare allo stadio, aprivano i cancelli al 30° secondo tempo e mi ricordo che ho fatto tempo ad entrare e Bigon ha fatto gol dalla parte opposta, ho sentito l'urlo e aveva segnato con quel malefico polpaccio. Volevo anche dire una cosa, forse il rapporto giusto rispetto a Rivera non è tanto Mazzola, ma per quanto mi riguarda è Beccalossi, che per me, credo per tutti gli interisti, rimane una sorta di icona inavvicinabile, anche se è stato qualche anno dopo, ecco. Perché per cui il rapporto lo farei fra loro due, perché sono le due immagini dell'Inter e del Milan forse le più grandi che noi abbiamo, almeno della nostra età e della nostra generazione. Ecco, però io ricordo di Beccalossi anche una bellissima battuta di Paolo Rossi sul calcio di rigore, non so se ve la ricordate. Bellissimo. Chissà se la ricorda San Filippo. Sì, sì, era una battuta micidiale, meravigliosa, quando racconta di chirurgica, dobbiamo dire, quasi. Che sbaglia, non ricordo più se due o tre rigori. Due, soltanto due. Sì, sì, molto divertente. Paragone Beccalossi Rivera, perché i due giocatori insomma sono distanti da un punto di vista sia tecnico che poi insomma quello che non dà. Però è giusto dare all'immaginario quello che si merita, quindi Tiziano è interista, giustamente c'è il Becca come riferimento, per carità. Però secondo me è più Mazzola il contralciare del Gianni. E infatti nella copertina di questo libro, che ricordo si chiama Fedeli a San Siro e che stiamo presentando a Radio 24 Italia in controluce, ci sono le due icone di Milan e di Inter che si stringono la mano poco prima di un derby. È carina anche la controcopertina, se l'hai vista, dove ci siamo noi due vestiti da interisti e milanisti degli anni 70 in barriera, e dimostra tutta la nostra allegra stupidità nell'aver fatto questa cosa anche in maniera un po' goliardica, anche se poi comunque ci abbiamo messo un po' l'impegno nello scriverlo, perché abbiamo tirato fuori gli episodi della nostra vita legati al calcio, che per quanto ci riguarda forse sono i più significativi. Ma è anche un grande amore non solo per il pallone ma anche per una città che certo è cambiata rispetto agli anni 70, ma che comunque non vi molla, anche se so che Tiziano Marelli non abita più a Milano. Non abito a Milano in questo periodo, ma spero di tornarci presto, e comunque ho mantenuto casa e ci vengo appena posso, per cui la nostalgia è tanta. Adesso sono a Roma in questo periodo, ma diciamo che la mia città resta naturalmente Milano ed è solo quella, per cui il mio domicilio lì è tutto quanto. La cosa divertente di Roma è semmai quando si ha a che fare con qualche giallo rosso qua, perché qua il clima è tutta un'altra cosa ed è troppo divertente per quanto mi riguarda. Se può interessare, la prima volta che sono andato a trovare Tiziano a Roma, eravamo a bere un aperitivo vicino a casa sua, a un certo punto squilla il telefono, ma ho scoperto che lui aveva messo come suoneria "O mia bella Madonnina". Per la città di Roma, come suoneria "O mia bella Madonnina", e questo ovviamente gli rende onore per avere mantenuto il nome della città di Milano Ansa anche nell'urbe. Ho rischiato più volte il linciaggio sul metro e soprattutto adesso, perché l'ho sostituito "mia bella Madonnina" con l'inno dell'Inter. Per cui, e questo va meno bene però. Per tre volte sulla linea B della metropolitana, quando esce allo scoperto, ho rischiato il linciaggio, però valeva la pena. Questo libro, Fedeli a San Siro, che nasce come una storia di due amici che si incrociano. Ma questo libro nasce perché io e Tiziano ci conosciamo da 30 anni e più. Dopo tanti anni di frequentazione, poi ci siamo persi per qualche anno, ci siamo ritrovati e proprio in quel periodo abbiamo cominciato a scriverci delle mail, e lo facevamo soprattutto in argomento calcistico. La scusa era sempre quella, insomma, il calcio, per scriverci, per sentirci, e poi non le insegnavamo commenti sulle partite delle nostre squadre. Solo che poi ci siamo accorti che ci mettevamo un impegno eccessivo rispetto al tipo di messaggio, insomma. Per cui abbiamo detto: ma scusa, ma se dobbiamo smetterci lì a diventare matti e cercare di scrivere bene e come si deve e con argomenti interessanti e delle mail tra di noi, allora proviamo a mettere insieme questo sforzo con un obiettivo diverso. Allora abbiamo cominciato a scrivere dei racconti che prendevano spunto dalle nostre memorie di infanzia e di adolescenza, e è nato questo libro, che in realtà è un piccolo affresco, in alcuni punti disordinato, in altri più congruo, ma alla fine poi quello che viene fuori, secondo me, è un quadro, non so se definire dolce amaro, ma comunque non passatista, ma che racconta della nostra città con lo sguardo verso la nostra memoria e con la coscienza della nostra presente. Ecco, ma vi piace di più la Milano degli anni 70, diciamo la Milano di Riviero Mazzola, o la Milano di oggi, la Milano del 2011? Ma direi che per una questione naturale, generazionale di ricordo, ci manca e ci piace tanto quella lì, è quella che in qualche modo ci ha cresciuto con tutte le sue contraddizioni, con il periodo politico, con la militanza che non era solo calcistica, che tante volte bisognava anche tenere nascosta se si faceva politica in altro modo. Insomma, ci manca tanto quella Milano, come è naturale, perché ci manca anche il sapore delle caldarroste, ci manca l'idea dell'oratorio. Un episodio, un capitolo che tutti e due descriviamo è quello dei nostri rispettivi oratori. Io a Niguarda e lui a Gallaratese, e gli oratori, ahimè, come si suol dire, non ci sono più, che sono una grande palestra per chi ha amato il calcio. Adesso i ragazzini, fra l'altro, amano molto di più giocare sul cemento. Io non capisco com'è, perché per esempio vicino a casa mia a Milano c'è un grandissimo prato e tutti i ragazzini giocano sul cemento. Gli chiedo come mai, mi guardano come dei pazzi, perché non c'è più neanche la voglia di stare sull'erba e di sentirne l'odore. L'odore dell'erba è quello che ha mosso, diciamo, generazioni di calciofili e aspiranti calciatori che poi non lo sono diventati, ma che hanno amato il calcio, amano il calcio come noi della nostra età. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Siamo su Facebook, ricordo la pagina e il gruppo, su Twitter siamo rintracciabili via mail controluceradio24.it. Torniamo domani puntuali alle 6.30 su Radio 24 con la pillola di Italia in Controluce. Domani sarà dedicata alla città di Parma.